Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Sono uscita dall'università e mi sono sentita assolutamente non considerata, non valutata. Arrivo qua, i professori vengono al pub con te, ti chiedono che cosa ne pensi, ti chiamano per nome. Ti salutano per strada. Ti salutano per strada, ti rispondono alle mail dopo mezz'ora, ti dicono grazie quando sollevi dei dubbi, fai delle domande. È fantastico, cioè tu ti senti qualcuno. Io se sono qua lo devo soprattutto alla Francia che mi ha permesso di fare 4 master, di cui uno a Oxford, e sono sicura che se fossi rimasta in Italia non avrei mai avuto questa opportunità. Perché lasciamo andare via tutta sta gente che formiamo e non gli diamo opportunità di tornare? Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. In apertura le voci di alcuni giovani italiani espatriati a Londra, così come le ha raccontati qualche settimana fa la trasmissione televisiva Servizio Pubblico. Una visione lucida e disincantata, la loro ancora increduli nel venire pienamente valorizzati e aiutati a crescere in un contesto sociale meritocratico che funziona qual è quello della capitale britannica. Quanto appare lontano da Londra, lasciatecelo dire, il provinciale microcosmo italiano. La frase della settimana è, diciamo pure, un po' anomala ed è copyright di Roberto Borsa, dirigente dell'Agenzia Spaziale Italiana. Con la sua denuncia ha fatto scattare le indagini che hanno portato alle dimissioni del presidente dell'agenzia saggese. In Italia l'allocazione delle risorse è completamente sbagliata solo a causa della corruzione. Perdiamo i cervelli per dare spazio ai clientelismi. Denunciare questa condizione è l'unico modo per andare verso tempi migliori. Così Roberto Borsa. Oggi informazioni utili per chi vuole lasciarsi alle spalle l'Italia. Secondo il sito expatistan.com, Londra, per quanto una delle città più attrattive d'Europa, è anche la metropoli più costosa al mondo. La capitale britannica batte New York, Parigi e Sydney. È però anche vero che ben il 79% dei posti di lavoro creati nel settore privato in Gran Bretagna risultano concentrati proprio a Londra, in misura 10 volte superiore a Edimburgo. Pensate che un giovane britannico su 3 dopo la laurea fa le valigie per la capitale, nella gran parte dei casi senza più tornare. Allora, oggi non perdetevi assolutamente questa mezz'ora con Giovani Talenti, protagonisti due giovani start-upper il cui primo obiettivo è aiutare voi a trovare un'opportunità di lavoro all'estero. La prima di loro vive in Austria. Non viene dato spazio ai giovani in Italia e chi un lavoro già ce l'ha è già fortunato così, quindi perché dovrebbe richiedere qualcosa di più? Noemi Cesarano, 31 anni, è una start-upper specializzata nel reclutamento di professionisti italiani per il mercato di lingua tedesca a Vienna. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio al notiziario. Oltre 3 studenti italiani su 5, secondo un'indagine scuola.net, sognano di scappare all'estero, anche se il 34% spera di fare rientro nella penisola. Per oltre la metà andare all'università ha ancora un senso. Tuttavia, per 3 su 10, la laurea va sì conseguita, ma all'estero. E ora uno sguardo oltre confine. Giovani, scappate dalla Francia. Per una volta nel mirino ci sono i cugini d'Oltralpe. Sta facendo tendenza Felix Markard, 38enne imprenditore franco-americano, che ha pubblicato un editoriale sul quotidiano Libération in cui invita i giovani transalpini a lasciare il paese. La Francia è una gerontocrazia ipercentralizzata e decrepita, attacca Markard, che definisce la situazione simile a quella italiana. Secondo le ultime statistiche, 35.000 francesi sono espatriati nel 2011. E da un anno a questa parte gli studi sulla fuga dei cervelli in Francia si moltiplicano. A voler partire sono soprattutto i neolaureati, in particolare coloro che hanno studiato nelle grandi école. Secondo Harris Interactive, il 79% degli studenti di questi istituti sarebbe pronto a cercare un impiego all'estero dopo la laurea. I francesi che vivono oltre confine sono 2 milioni, la maggior parte è under 35. In Francia è boom delle società di consulenza specializzate nell'emigrazione. E la Spagna è attualmente uno dei paesi dell'Unione Europea con il maggior numero di migranti. Quasi 40.000 iberici hanno abbandonato la penisola nel primo semestre 2013, destinazioni Gran Bretagna, Francia e Germania. Un recente studio ha precisato che, nonostante l'85% dei giovani spagnoli sia convinto che muovendosi sia più facile trovare impiego, solo la metà è disposta a farlo accettando qualsiasi tipo di lavoro. Da Madrid ad Atene, dopo 5 anni di crisi con tassi di disoccupazione record, la delusione continua a spingere migliaia di greci a emigrare. Come riferisce il quotidiano Tovima, ad abbandonare il paese anche decine di migliaia di medici e ingegneri. Secondo Kappa Research, 7 laureati su 10 hanno intenzione di lasciare la Grecia. Buone notizie sul fronte controesodo. Il consiglio di amministrazione dell'Università della Calabria ha deciso di procedere alla chiamata diretta di Sandra Savaglio quale professore ordinario di astrofisica. La scienziata, alla quale il magazine Time aveva dedicato la copertina, farà dunque ritorno nella sua terra d'origine, rientrando dalla Germania. Ancora storie di controesodo a giovani talenti, quella che vi raccontiamo oggi è arrivata alla casella email giovanitalenti@radio24.it, è decisamente positiva. Parla di un giovane che ce l'ha fatta a rientrare in Italia con una posizione manageriale dopo anni di lavoro all'estero tra Gran Bretagna e Francia. Alessandro Gallo, 37 anni, è direttore generale di Springer. A lui la parola. All'inizio non è stato facile, anche per un problema puramente anagrafico, perché quando io sono rientrato in Italia nel 2003 avevo praticamente 26 anni e questo è stato un elemento molto difficile, perché bisognava dimostrare qualcosa in più rispetto ad altri che magari avevano lo stesso ruolo ed avevano 40 o 50 anni. Per fortuna nel tempo sono riuscito ad avere le stesse soddisfazioni che avevo avuto all'estero ed anche molto di più, anche perché non ho lavorato soltanto in Italia ma mi sono occupato anche di tanti altri mercati. Tu volevi anche dare ai giovani un messaggio di speranza quando ci hai scritto. Sì, secondo me è molto importante riuscire a sfruttare le proprie competenze attraverso delle esperienze all'estero. È essenziale confrontarsi ad altissimo livello con colleghi stranieri, imparare il loro know-how e riuscire a trasferirlo al meglio all'interno delle professionalità del proprio paese. Il programma è il 21 e 22 febbraio a Milano di Daexpo Carriera e Lavoro, la prima fiera sul mondo del lavoro in ambito internazionale rivolta a giovani professionisti e neolaureati. Tutte le info su carriera-didaexpo.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta in Austria. Il piccolo stato centro-europeo, un tempo centro gravitazionale imperiale, è più recentemente diventato la base di reclutamento di giovani medici, ingegneri e informatici italiani. A tirare le fila del progetto una nostra giovane emigrata. Nome: Noemi. Cognome: Cesarano. Età: 31 anni. Città di origine: Napoli. Studi: lingue straniere all'Università di Bergamo. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2013. Per andare dove? Austria. Perché? Per una nuova sfida. Quale lavoro svolge attualmente? Ho un'agenzia di lavoro internazionale. Dove? A Vienna. Tornerai? No, per ora non è in programma. L'austriaco Falco, Out of the Dark, fuori dal buio, traduciamo noi, fuori dal tunnel di un'Italia che non offre sufficienti opportunità ai propri giovani. Oggi puntata d'eccezione per giovani talenti, con le storie di due giovani start-upper che hanno fatto del proprio lavoro un modo concreto per aiutare i coetanei a espatriare. Perché sono andata via dall'Italia? Perché lavoravo per la gloria, denuncia a giovanitalenti@radio24.it Noemi Cesarano da Vienna. Noemi, all'estero si può anche lavorare in modo sano e professionale? Ci spieghi come funzionano le cose? Sì, in un ambiente normale. Diciamo che la mia sicuramente è stata una scelta personale, ho voluto dare una svolta alla mia vita, ma nel farlo ho appunto avviato questa startup in collaborazione con il mio partner che è tedesco. Si tratta di un'agenzia di lavoro internazionale, Ventura Career, con cui abbiamo l'opportunità di aiutare altri coetanei, quindi giovani italiani, a fare questo step. Tra poco ci arriviamo. La tua storia in breve: napoletana di origine ma cresciuta a Bergamo, fin da piccola coltivi la passione per le lingue anche con vacanze studio e ora di lingue straniere ne parli 5. Dopo il liceo linguistico ti iscrivi alla facoltà di lingue e letterature straniere. A distanza di anni rifaresti una scelta coraggiosa visti i tempi, puntando su una facoltà umanistica? Certo, perché secondo me il vero coraggio sta nel fare ciò che piace, è solo così che si può emergere. Già da studente cominci a lavorare con numerose collaborazioni anche in università, dove gestisci il programma di mobilità Leonardo, tieni anche un corso estivo per studenti cinesi e ti affacci al mondo del giornalismo. L'esperienza più lunga all'estero è nel Guangdong in Cina a metà anni 2000 per la tesi. Se dovessi dare tu un voto all'università italiana? Sulla base della mia esperienza personale posso senz'altro dire che l'università italiana offre una buona formazione e una buona preparazione. Sull'esperienza dei nostri candidati Ventura Career posso dire che senz'altro la formazione italiana è anche molto ricercata e molto apprezzata all'estero. Se non di poi però rifaresti la stessa scelta di studiare in Italia o te ne andresti all'estero? No, io studierei comunque in Italia, rifarei la stessa scelta perché penso che sia importante avere un'impronta culturale del proprio paese come base culturale per poi rapportarsi e confrontarsi con altre realtà. Arriviamo al mondo del lavoro, perché il tuffo vero e proprio arriva per te nel 2009, collaborazione con due accademie di moda e design a Milano. Gli ultimi 3 anni in Italia coincidono con un impegno, diciamo pure full time, nel settore delle pubbliche relazioni e del marketing. Lavoro molto internazionale. Concretamente, di cosa ti sei occupata e quanto soprattutto hai viaggiato? Io mi sono occupata di marketing internazionale e in particolare di recruiting di studenti stranieri. In questi 3 anni sono stata responsabile in particolare di 3 aree, la prima la Russia, i paesi dell'est, poi Cina e Taiwan e poi il centro Europa nell'ultimo anno, in cui mi sono particolarmente interessata di Sri Lanka. Svizzera, Austria e Ungheria. Grande passione ed entusiasmo, adoravo il mio lavoro, ricordi. C'è però un ma. Nonostante la trasformazione del rapporto in un contratto a tempo indeterminato, nonostante gli amici ti vedessero in carriera e anche fortunata, tu ti sentivi in gabbia. La mia era una gavetta a tempo indeterminato, una garanzia solo per l'azienda. Perché? Perché in realtà il contratto a tempo indeterminato in Italia è ormai diventato la massima aspirazione di molti, per cui se hai un contratto a tempo indeterminato sei sistemato, hai fatto la tua carriera, sei già fortunato così, quindi perché scalpitare? Mentre invece può diventare una gabbia per chi è un giovane ambizioso e vorrebbe vedere davanti a sé delle prospettive future di carriera, di crescita professionale. Arriviamo al punto fondamentale, Noemi. Nessuna prospettiva di crescita professionale, solo promesse ci riporti. Allora, in Italia c'è un problema, al di là della moria di offerte di lavoro, anche di opportunità per i giovani che un lavoro già ce l'hanno, un doversi quotidianamente accontentare, tarpandosi le ali. Certo, perché non viene dato spazio ai giovani in Italia e chi un lavoro già ce l'ha è già fortunato così, quindi perché dovrebbe richiedere qualcosa di più? E infatti la maggior parte dei nostri candidati con Ventura Carriera un lavoro già ce l'hanno, non vanno all'estero perché cercano un lavoro che in Italia non trovano. Ma e io ti aggiungo, odio le pacche sulle spalle, lo sfruttamento, i premi e i complimenti fini a se stessi e le promesse vuote. Sempre tu parli, Noemi. Quanta ipocrisia c'è nei nostri ambienti lavoro? E se anziché dare pacche sulle spalle cominciassimo a valorizzare per davvero i giovani? Magari, sarebbe lì la svolta. Bisognerebbe proprio partire dai giovani per rilanciare il futuro del paese. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Noemi Cesarano, 31enne startupper a Vienna con Ventura Career, agenzia di headhunting per medici, ingegneri e informatici italiani alla ricerca di opportunità di impiego tra Austria e Germania. Noemi approda nella capitale austriaca dopo una carriera italiana sì positiva ma avara di reali soddisfazioni e concrete opportunità di crescita. Da qui l'idea di mettersi in proprio, ma all'estero. Riprendiamo allora l'ascolto. Giovani talenti. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Ora vivo in Austria, a Vienna, dove lo scorso aprile ho fondato con mio partner l'agenzia di lavoro internazionale Ventura Career, con la quale selezioniamo medici, ingegneri e informatici per opportunità di lavoro in Austria e in Germania. Allora Noemi, quanto quella gabbia italiana ti ha convinto a tentare la tua personale scommessa di aprire una startup all'estero? Beh, è stata una sfida, ma senz'altro sono scappata a cuor leggero, pronta e con una grande energia nel mettermi in gioco, appunto con una nuova opportunità che potesse offrire la possibilità di andare all'estero anche a altri giovani. Perché avete scelto proprio l'Austria? Senz'altro il progetto Ventura Carriera è stata una sinergia con il mio partner Daniel Chap, quindi lui viveva già a Vienna dove ha studiato legge e quindi lui aveva già qui un'altra agenzia. E arriviamo a un punto fondamentale. Quanto è stato facile aprire la vostra attività oltre confine anche in termini burocratici? Perché anche l'Italia poteva essere una base di lavoro, come vedremo tra poco. Sì, in realtà all'inizio avevamo anche pensato, ipotizzato l'Italia, ma si è rivelata una grande odissea burocratica e quindi del tipo? A livello burocratico sarebbe stato troppo lungo, avevo provato già a rivolgermi a associazioni per avere dei finanziamenti come giovani imprenditori, ma addirittura quasi lo sconsigliavano visto il momento di crisi in Italia. Come funziona però Ventura Carriera? Come mettete in contatto giovani professionisti italiani con aziende tedesche e austriache? Noi selezioniamo medici, ingegneri e informatici. Solo quelle tre categorie, ecco. Sì, esclusivamente queste categorie per opportunità di lavoro in Austria e in Germania. Come le mettiamo in contatto? Abbiamo un network di aziende e ospedali, ma lavoriamo in due direzioni, nel senso che partiamo sia dalle richieste delle aziende per coprire determinate posizioni, quindi andiamo alla ricerca di profili specifici, e sia nel senso opposto, quindi prendiamo candidature spontanee e le seguiamo sia in orientamento, diamo tutte le informazioni e cerchiamo per loro opportunità ad hoc. Già ci hai detto che a sorpresa è più chi un lavoro già ce l'ha di chi lo cerca a rivolgersi a voi, però quanto sono richiesti dalle aziende straniere i nostri giovani professionisti? Sono molto richiesti, però un osso duro è il tedesco, nel senso che è un must e purtroppo è una rarità in Italia. E normalmente che tipologia di offerte c'è? Tramite Ventura Career noi proponiamo soltanto contratti a tempo indeterminato e full time. Noemi, più volte ci siamo occupati dello spread nei salari tra Italia ed estero per un giovane neolaureato che ammonta ormai a diverse centinaia di euro. Allora, tu lo confermi e soprattutto perché in Italia le imprese pagano meno i giovani? Beh, gli stipendi sulla base della nostra esperienza sono sempre circa un 50% più alti all'estero. all'estero, e perché in Italia le imprese pagano di meno i giovani, senz'altro perché se lo possono permettere, perché la legge della domanda e dell'offerta, ci sono pochi posti, ma i giovani che cercano lavoro sono tanti, quindi normale. Il nostro obiettivo non è alimentare la fuga dei cervelli, ma offrire a giovani qualificati che in Italia non si sentono soddisfatti, gratificati o valorizzati opportunità di lavoro all'estero, c'è scritto. Noemi, c'è speranza secondo te di arrivare a uno step ulteriore, cioè quello di rendere il nostro paese una terra di circolazione dei talenti? È questo l'obiettivo vero? Magari, io sono informata su alcune iniziative che ripropongono il rientro dei cervelli, ma io ritengo che al momento sia pura utopia, perché è come chiedere a un topolino che è scappato di rientrare nella trappola senza metterci nemmeno il formaggio. Almeno metteteci il formaggio. Noemi, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va, una proposta concreta da cui ripartire? Se guardo ai giovani in Italia vedo molta demotivazione, sono molto scoraggiati, ma ritengo anche che molti si adagino nell'ovatta della famiglia con un atteggiamento piuttosto letargico, direi, e la mentalità è troppo chiusa, e quindi il mio suggerimento è quello di viaggiare, confrontarsi con altri sistemi, culture, di essere curiosi verso il diverso, e forse cambiare prospettiva aiuta a ragionare anche in modo più aperto e trovare soluzioni su un mercato più ampio. Ci raggiunge ora in linea Daniel Rongo, giovane startupper che ha scelto invece Napoli per fondare Simply Job, lavoro all'estero per italiani. Con Noemi in comune un tratto significativo: anche Daniel aiuta i giovani connazionali infatti a trovare lavoro e opportunità oltre confine. Buon pomeriggio. Salve, ciao Sergio. Oggi più che mai il segreto del successo sta nel ragionare in modo aperto, nel trovare alternative migliori su un piano internazionale senza esitare a cogliere nuove sfide oltre confine. Così Noemi ha delineato il modello da seguire per farcela in questo inizio di terzo millennio. Daniel, concordi, e soprattutto hai l'impressione che le nuove generazioni lo abbiano compreso? Sergio, sono certamente più che d'accordo con Noemi. Ti dico la verità, ho i miei dubbi che molti giovani si siano resi conto della grandezza degli strumenti che oggi si hanno a disposizione per poter intraprendere quelle che sono carriere di successo. Grazie a internet si può intraprendere quindi una carriera internazionale stando da casa, insomma, tramite professional network come LinkedIn, frequentando prestigiosi corsi universitari online gratuitamente dalle più grandi università. I giovani quindi, secondo me, devono un attimino rendersi conto che il mondo oggi è più rapido e dinamico. Due aspetti legano la tua storia a quella di Noemi. In un certo senso le vostre storie appaiono persino gemelle. Entrambi siete di origine napoletana e in secondo luogo avete aperto startup per aiutare i vostri coetanei a trovare lavoro all'estero. Partiamo dalla tua storia, che è veramente internazionale, tra Gran Bretagna, Singapore, Londra e Australia. In brevissimo ce la riassumi? Sono sempre stato un grande appassionato in effetti di tecnologia e business. A 21 anni, nonostante il discreto successo, decisi di chiudere la mia prima startup lanciata a 16 anni. Si trattava di un negozio e-commerce, per concentrarmi poi sui miei studi di economia e realizzare il sogno di vivere dai 20 ai 30 anni ogni anno in un posto diverso intorno al mondo e intraprendere un percorso di carriera internazionale. Non chiedermi come, ma alle volte non lo so nemmeno io, ma ce l'ho fatta in effetti. Ho passato circa un anno e mezzo tra Cambridge e Londra in Inghilterra, dove ho perfezionato l'inglese, per poi volare a Singapore, dove mi sono trattenuto un anno, dove ho lavorato nel campo della realtà virtuale per una società di Silicon Valley, per poi avere l'opportunità di lavorare per entrambe le aziende dei miei sogni, quali Google a Dublino prima per un anno e poi a Microsoft successivamente a Sydney in Australia. E qui ti fermo, Daniel. C'è una velocità diversa oltre confine rispetto all'Italia per un giovane dinamico e pronto alle sfide? Certo, sicuramente sì. Se hai tanta voglia di fare, soprattutto se sei pronto a lavorare sodo, c'è sicuramente molta più meritocrazia. Ci sono forti valori professionali, specialmente in azienda stampo americano, dove valori come la meritocrazia, appunto, e culture aziendali predefinite, come la libertà di iniziativa, sono incentivati. Quindi ci sono sicuramente le piattaforme per eccellere. Allora, alla fine di questo percorso in giro per il mondo, decidi di aprire la tua startup in Italia e scegli il Sud, Napoli. Perché? Nonostante l'area di crisi e depressione collettiva che tira in questo paese, vedi qualcosa muoversi? Guarda, ho deciso di prendere una pausa di riflessione dalla vita corporativa prima di tutto, per dedicarmi anima e corpo all'obiettivo di lanciare questa startup a Napoli. Io credo che l'Italia sia comunque un posto molto promettente per quanto riguarda l'utilizzo di nuove tecnologie. Tuttavia io credo che il problema più grosso rimanga un attimino quello della difficoltà per le aziende di crescere in Italia. C'è una grossa mancanza di human capital dovuta appunto a questa mancanza di sviluppo delle aziende esistenti, che genera purtroppo dei problemi nella creazione di un vero e proprio ecosistema di talenti. E questo è un problema purtroppo sì, tipico del nostro paese, anche se piano piano ci si sta lavorando. Allora, arriviamo a Simply Job, startup con una finalità sociale, come la definisci. Come nasce l'idea e soprattutto, in breve, come funziona? Premetto che siamo ancora in piena fase beta, quindi insieme al mio compagno di ventura, Francesco Carlucci, lavoriamo ad innovazione e cambiamenti ogni giorno. Si tratta di un motore di ricerca di lavoro per italiani all'estero. Combiniamo sofisticate tecnologie internet a tocco umano non vero e proprio umano, per selezionare le offerte di lavoro migliori sul web per coloro che parlano italiano fluentemente. E al tempo stesso offriamo la possibilità anche a quelle aziende interessate a postare direttamente il proprio lavoro, quindi la propria offerta, e ai candidati di caricare il proprio CV. Quindi il proprio curriculum. Sono ricercati i nostri professionisti di lingua italiana all'estero? Sì, guarda, abbastanza, molto, ti dico la verità. Dipende molto dai settori. Ci sono Quali sono quelli un po' più animati, dinamici? Quelli gettonati, sì, sicuramente quelli di marketing, vendite e profili contabili, soprattutto in stati quali il Regno Unito e l'Irlanda, dove ci sono molte corporazioni che fanno business con l'Italia, quindi cercano figure commerciali, soprattutto italiane. Grazie a Daniel Rongo e in bocca al lupo per la tua avventura imprenditoriale. Domanda di rito per Noemi Cesarano: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Il mio consiglio è quello di reagire alla situazione di staticità che adesso c'è in Italia, di informarsi con curiosità e prendere un po' la vita di petto, insomma, prendere la vita a morsi. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo: un Senior Communications and Public Affairs Officer per l'associazione GESAC a Bruxelles, scadenza per i CV 24 febbraio, info su gesac.org. Una direttore per la Prudential and Regulation Division alla AFME, associazione per i mercati finanziari in Europa, sede di Londra, scadenza per i CV 14 marzo, curricula careers@afme.eu. E infine vi invitiamo a dare un'occhiata alle offerte di lavoro per un controesodo in Italia presenti sulla sezione Jobs del gruppo LinkedIn, la fuga dei talenti. Al momento sono presenti posizioni di rientro su Milano, Como, Verona, Genova, Bologna e Roma. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi siamo felici di raccontarvi un bel esperimento multimediale, esperimento che mette al centro proprio il mezzo radiofonico. Parliamo di Radio Pizza, emittente web che si pone come la voce degli italiani all'estero, anche perché i suoi conduttori sono tutti espatriati. Sara Primiterra, coordinatrice della sede belga, ci spiega cos'è Radio Pizza. Radio Pizza nasce dall'idea di quattro ragazzi, ingegneri italiani che studiavano all'Università Tecnica di Delft, che hanno deciso un bel giorno di fare un progetto insieme e di aprire una radio per dare voce a loro stessi, cioè agli italiani all'estero. È partita in Olanda nel 2010, sono stati intervistati centinaia di italiani in Olanda, poi questi quattro ragazzi hanno preso altre direzioni, si sono spostati in altri paesi e hanno fondato nelle varie città in cui sono spostati altre sedi della radio. Ora quanti siete? Siamo 5 sedi in Olanda, in Svizzera, in Spagna, in Danimarca e in Belgio. Quanti siete coinvolti attivamente? Il numero è difficile da dirsi perché è mutevole, ci sono persone che vanno e che vengono. Vuole proprio rispecchiare il via vai dell'italiano all'estero, la mobilità. Come funziona tecnicamente? Sì, gli appuntamenti sono fissi da ogni nazione, più varie trasmissioni di spin-off che nascono a seconda delle esigenze del momento. Quali sono le riflessioni che vengono fatte mediamente da voi italiani sull'Italia durante Radio Pizza? Ci sono due aspetti: da un lato il fatto che siamo arrivati all'estero, abbiamo trovato un lavoro e ci sentiamo realizzati, e dall'altro le differenze con l'Italia, quello che ci manca dell'Italia, ma anche come vediamo noi l'Italia da fuori. Diamo notizie anche relative al paese in cui siamo in italiano. Ci scrivono in molti, spesso ci scrivono per cercare lavoro, cosa che non possiamo dare perché noi siamo tutti volontari. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.radiopizza.net. Un motivo per restare o tornare. Il Consiglio dei Ministri ha approvato il piano 2014 per la ricerca e l'innovazione nell'impresa, 250 milioni a disposizione delle aziende per incentivare l'internazionalizzazione e l'assunzione di laureati e ricercatori. Potrebbero essere 1.800 i dottorandi con profili tecnico-scientifici a beneficiarne. Per ottenere gli incentivi, le PMI dovranno assumere i laureati con contratto a tempo indeterminato dopo uno stage annuale. Se il piano riuscirà, proseguiremo per i prossimi 6 anni, ha dichiarato il premier Enrico Letta. È un piano che incentiva l'assunzione di laureati, che incentiva l'utilizzo di dottori di ricerca. È un piano che dà a chi fa attività di impresa voucher per inserire attività di innovazione e di ricerca nella propria attività di impresa. Per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava. È aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Potere agli Espatriati. Dibattetene in 140 caratteri.